significa che lì hanno fede, ha come tacco una classica statua africana che non so se sapete con tutta questa storia di questo tipo di statue che all'inizio del Novecento, anche prima, erano considerate cineserie, cioè delle cose bizzarre che venivano da paesi lontani, e che nel Novecento nel mercato delle pulci di Parigi furono tra virgolette scoperte, ma anche tra virgolette, dai surrealisti, anche da Picasso, e diventarono opere d'arte, art maker. Poi parleremo anche in futuro sulla parte del felicismo, su questo aspetto, quindi tenete presente, io poi ve la dimostrerò in futuro, questo tipo di statua, adesso trasformata in tacco, fa parte appunto di una storia molto interessante dell'Occidente, di una parte dell'Occidente si relaziona a altre culture. Cioè, sapete che era anche la modella in complesso. Come Beh, per far sentire. Allora, lei ieri ha affermato che la soggettività è fondamentale nello studio antropologico e che quindi non andrebbe esclusa come ha fatto con i nostri, dividendo gli argonauti e gli ari. Però lei pensa che se Malinowski avesse poi inserito con tutta la propria soggettività tutto quello che lui ha scaricato nel diario, l'avesse inserito negli argonauti, sarebbe stato lo stesso grande antropologo che consideriamo tutti? È una domanda molto bella e ci ho pensato lungo, per cui la risposta non è semplice e certamente non è definitiva, perché Malinowski, che voleva contrapporsi all'evoluzionismo, io questo non ve l'ho detto, mi sono dimenticato, però pensavo fosse abbastanza chiaro. Il funzionalismo di Malinowski cerca di dare una soluzione diversa dal funzionalismo, perché il funzionalismo era pieno di giudizi di valore, no? Si mettevano le varie culture su una gerarchia verticale, per cui appunto in alto c'era la nostra cultura e via di seguito tutte le altre. Quindi il funzionalismo cerca di mettere in discussione questo aspetto logico, metodologico, filosofico e politico dell'evoluzionismo in quanto riproduttore di una gerarchia indebita. Quindi questo è la matrice del funzionalismo. E il funzionalismo, per altri versi, cerca di dare al concetto di cultura, che era veramente una prospettiva che anche gli altri antropologi cercavano di dare, il concetto di cultura, la stessa forza, stessa capacità scientifica. Un libro di Malinowski si chiama proprio La teoria scientifica della cultura, no? La stessa forza scientifica che gli altri scienziati applicavano alla natura, per esempio la botanica, la zoologia, via di seguito. Quindi c'è una tradizione europea che nasce dall'illuminismo, tra l'altro, si vede che l'illuminismo, secondo me nel Settecento, nascono non solamente queste scienze, zoologia, botanica, eccetera, ma nasce anche l'ideologia. Non so se sapete, la conoscete la storia dell'ideologia. L'ideologia è un programma di illuministi, cioè la crisi un po' dell'illuminismo, che cercano di applicare alle idee quella stessa forza oggettiva che appunto i zoologi applicavano allo studio degli animali. Per cui l'ideologia era un po' come la zoologia, che è una scienza oggettiva delle idee. Da qui io il primo giorno ho detto attenzione, logos, ideologia, logos, la matrice greca di logos normalmente è tradotta con scienza, e quando si dice scienza non è l'unica tradizione, si intende in genere una scienza appunto oggettiva, tipo matematica, una scienza naturalista. Per cui questi ideologi avevano l'ambizione di fare appunto una scienza oggettiva delle idee, affine ai zoologi e ai botanici. Questo è l'illuminismo. Malinowski appartiene a questa tradizione. Tutti questi antropologi, diciamo sì, di prima generazione, anche quella prima di Malinowski, appartengono ad una generazione che cercano di dare alla cultura una dimensione scientifica, in qualche modo oggettiva, più o meno tra virgolette, ma insomma, affine alle scienze della natura. Quindi tra scienza della natura e scienza della cultura ci dovrebbe stare un paradigma grosso modo unificato. La mia conclusione quindi, rispetto alla tua domanda, è che Malinowski non poteva non fare un libro come Gli Argonauti su questo paradigma, perché Malinowski appartiene a questo paradigma scientifico, a questa sua storia, che non è solamente la storia di Malinowski, è la storia dei paradigmi scientifici, che è un'altra cosa che voi dovete studiare, forse avete già studiato. Sapete, non è che la scienza ha un'oggettività, sono i paradigmi scientifici che hanno più o meno un rapporto più o meno oggettivo con le proprie elaborazioni teoriche. Per cui se il mio paradigma scientifico è questo, le mie conclusioni sono quest'altre o queste qua, se invece è un altro paradigma le mie conclusioni sono diverse. Per cui si sta discutendo, questo negli anni 50-60, su come il paradigma scientifico, ogni paradigma scientifico si dà la sua, le sue categorie non solamente di lettura, ma di trasformare tutto questo in una dimensione intellegibile. Quindi il paradigma di Malinowski non può che essere quello di fare secondo me gli Argonauti come la fanno. Per cui la tua domanda, la mia risposta è no, lui non avrebbe mai potuto fare mescolare gli Argonauti. Se l'avesse fatto sarebbe stato così avanti con i tempi che probabilmente non sarebbe stato riconosciuto e non avrebbe avuto giustamente quel successo che ha avuto, perché il successo di Malinowski in gran parte è dato dal suo proprio paradigma molto chiaro, molto forte, che è il paradigma del funzionalismo, dell'osservazione partecipante, tutte le cose che vi ho detto l'altra volta. Che succede? Succede però che se giustamente Malinowski è figlio dei suoi tempi, e in parte però non è solo figlio, anticipa, no? Malinowski è uno studioso, un antropologo che appunto getta un modo di elaborare la ricerca in modo molto avanzato, quindi lui sta in anticipo per certi versi, per tanti versi, ma non per tutti, no? Così come lui critica giustamente Freud e giustamente Marx, no? Due personaggi straordinari, importantissimi, è perché sia Marx che Freud sono figli appunto dei propri tempi. Marx aveva questa visione universalistica del modo di produzione capitalistico, così come Freud aveva questa visione universalistica del complesso del libro. Quindi mescolare soggettività e funzionalismo avrebbe provocato sicuramente un disastro. Per cui questo dal punto di vista di Malinowski. Ora, dal punto di vista, parola che io non amo molto, storico, cioè dal punto di vista nostro attuale, o meglio dal punto di vista che inizia nel 1967, appunto, quando la vedova, la seconda moglie, vedova di Malinowski, decide di pubblicare gli Ari, da quando noi abbiamo gli Ari, certo lì non è più solo Malinowski, nel senso stretto, gli Argonauti, il funzionalista che parla, è un altro Malinowski, e parla a un'altra generazione di antropologi, e non solo di antropologi, di persone che vogliono fare ricerca. E allora questo dualismo tra pubblico e privato, tra soggettivo e funzionalismo, tra emozioni e razionalità, questo dualismo adesso possiamo dire che non funziona più. Ai tempi di Malinowski lui poteva continuare a dire che Dio lo guardava sempre in qualsiasi momento, che la mamma era tanto buona, però se stava a distanza era ancora meglio, che la sua fidanzata era un problema drammatico che lui cercava di risolvere in un altro modo delle sue droghe, e via di seguito. E tutte queste cose possono sembrare aneddoti, può sembrare quell'aspetto un po' losco, un po' peloso della biografia, sapete questo aspetto peloso che sapete, si chiama il complesso di Françoise. Non so se conosce Françoise. Françoise era la domestica di Marcel Proust, il grande scrittore Proust. Proust scrive questo libro straordinario, sempre tutti voi conoscete, spero che l'abbia letto, no? La ricerca del tempo perduto. Poi che fa Françoise? Françoise scrive la memoria di Proust, cioè ci dice, sì, ma Proust faceva queste cose qua, quando andava in bagno, so, ci diceva le cose più grossolane, più diciamo così, private, personali. Io spero che il dialogo dei nostri non è il complesso di Françoise, non è guardare, come si dice, dal buco della chiave i lati privati dei nostri, non è questo. Se fosse questo sarebbe una cosa tra il pettegolezzo e quasi l'offesa. È una domanda più profonda che ha attraversato gli antropologi appunto a partire dalla fine degli anni 60, e cioè: è possibile dare un'altra soluzione al rapporto tra razionalità, emozione e sentire? Questa è la domanda. È possibile dare una risposta differente da quella che ha dato Malinowski? Con grande rispetto che si dà a lui, ma c'è questo limite che è possibile riconoscere Malinowski, che è determinato in parte dalla teoria del funzionalismo, ma in parte anche da questo dualismo che non funziona? Questa è. E io credo che sia giusto, con i nostri saperi, cercare di trovare una soluzione altra alla questione di questo rapporto tra appunto emotività, passionalità e ricerca razionale, o di una nuova razionalità. Detto proprio in altri modi, è come se fosse fosse iniziato in quel periodo, anche un po' prima ovviamente da Pugnatori, un processo di ricerca di nuove forme di razionalità. È come se la domanda che ci siamo posti è: ma questo tipo di razionalità sarà anche una razionalità che contiene al suo interno delle forme logiche, diremmo quasi epistemologiche, che riproducono il dominio? Sarà che quindi non c'è una unica forma di razionalità e sarà anche possibile ricercare delle nuove razionalità dando anche a questo termine una dimensione plurale e non pura? Non c'è una pura razionalità, capite? Almeno questo è il pezzo io. È possibile trovare delle razionalità ibride, sincretiche, mescolate? Ecco, a questa prospettiva nasce la critica fatta a Malinowski con grande delicatezza e affetto. Io adoro Malinowski, leggere Malinowski è sempre un enorme piacere, ma come spesso accade, e qui vi cito, io già vi cito una frase di Nietzsche che io adoro, che è una cosa bizzarra, dico questo adesso per vedere perché. Nietzsche dice: una grande verità non va adorata, va criticata. Una grande verità non va adorata, va criticata. Che è una frase complicata, secondo me, perché appunto una grande verità, per esempio Malinowski esprime una grande verità, secondo me, ma le grandi verità, quando sono veramente grandi, esprimono un livello, diciamo, di verità, di corrispondenza a una fase storica che è storica. Per cui io leggo così questa frase, che a me è sempre tanto piaciuta: il fatto di criticare la grande verità significa riconoscere che quella verità è grande proprio perché capisce, inquadra, dà senso a una fase storica, culturale, o artistica o politica, quello che volete, che era di quel periodo. Allora, sviluppare una dimensione che posiziona il ricercatore, lo studente, l'università a criticare le verità significa che nessuna verità rimane immobile. Questo è un prezzo. Una verità immobile è morta. Una verità immobile è morta. La potenza del concetto di verità è che sfida se stesso. Io la vedo così, capito? Sfida costantemente il modo in cui si presenta una verità. Allora, Malinowski esprime una grande verità in questi tempi e noi con delicatezza, affetto e simpatia la vediamo. Grazie a te. Molto. Mi dicevo questo, dicevo Malinowski. Non vi percorro tutto il corso, insomma abbiamo visto come sia importante avere una prospettiva di cercare di pluralizzare la storia dell'Occidente in le storie, per cui gli stessi norvegesi appunto avevano una storia che non era riassunta dalla storia dell'Occidente. Questo è uno dei grandi aspetti per cui si pluralizza il concetto di storia. Perché noi, io non so, a scuola avete studiato la storia, come si intende normalmente, no? Ma non avete studiato la storia dei torinesi. Perché? Perché non si studia la storia dei torinesi? Allora, questo è un problema, perché questa dimensione singolare, universale, di questa disciplina ha trovato i suoi limiti. Guardate bene che questo aspetto qui, tra parentesi, fu contestato per primi dagli studenti dell'Argentina, dagli studenti afroamericani, sempre negli anni 60, siamo sempre in quello periodo, 67-68, in cui gli studenti afroamericani erano costretti a studiare che l'Africa era appunto un continente più o meno senza cultura, senza arte, senza filosofia, senza religione. No, non si studiava tutto questo dell'Africa. Per cui questi studenti si sono trovati a un certo punto a dire: sì, ma noi studiamo un certo tipo di storia alle università americane, sto parlando, e dove sta la cultura dell'Africa? E dove sta la musica dell'Africa? E l'arte dell'Africa? E quindi hanno cominciato a contestare il meccanismo di insegnamento dentro le università statunitensi. Capite? E che cosa ha prodotto questo meccanismo? Prima di tutto questioni anche apparentemente terminologiche strane. No? Per esempio, io ho detto afroamericani. Ecco, loro si sono chiamati afroamericani per primi. Prima non si chiamavano afroamericani. Sapete, no? Prima si chiamavano, come si chiamavano? Black, a volte molto peggio, no? Negro, nigger, cioè, c'era tutta una serie di termini, no? Per identificare queste persone che non andavano loro avanti all'università. Sapete la storia? Il primo studente negro, adesso dico negro perché non è vero, che andò all'università fu accompagnato dall'esercito federale, non quello statuale, in Alabama, l'esercito. Mi pare fu Johnson, il presidente Johnson, che stabilì che i militari federali accompagnassero il primo studente, che si chiamava negro all'epoca appunto, nelle università. Nello stesso periodo accadde una delle cose più belle nella storia solamente della politica, la vera politica. Sapete, negli autobus pubblici nel sud degli Stati Uniti, una persona, uso ancora lo studente negro o negra, si poteva sedere nell'autobus, ma se veniva una persona bianca si doveva alzare e dare il posto. La sapete questa storia? Qualcuno la sa. Si alzava, perché era il diritto del bianco a stare seduto. E che è successo? Una donna, lui adesso mi sfugge il nome, è importante, è morta l'anno scorso. Una donna a un certo punto non si alzò. E che fece il bianco? Chiamò la polizia. E lì iniziò un processo, pensate a questa storia, guardate che siamo negli anni 60, un processo in cui una cittadina bianca degli Stati Uniti accusò una cittadina negra degli Stati Uniti di non essersi alzata a cederle il posto in un autobus pubblico. Questa era la situazione, capite? E su questo naturalmente poi è stato tutto un processo che poi conoscerete, per King, insomma tutto. Ma all'interno di questo c'erano stati la parte un po' più radicale che si chiama poi anche l'altro, sono appunto Afro-America, che muda profondamente non solamente la tecnologia, ma anche una visione del mondo. Adesso, tra l'altro, negli Stati Uniti anche Afro-America non è corretto, perché Afro-America è un prefisso afro, è un sostantivo. E adesso per essere corretti si dice normalmente African American. African American, sono due sostantivi per cui la persona transita con il frattino tra la dimensione dell'Africa e quella dell'America. Credo che questo sia, non sia solamente un fatto diciamo così terminologico politicamente corretto, è un fatto importante che noi riflettiamo sulle maniere di classificazione dell'altro. E questa è la teologia. Sto dicendo tutto questo? Ah, c'è. Posso fare una domanda in sì. Gustavo è arrivato oggi da Rio de Janeiro, sarà nostro studente, quindi a me fa molto piacere che, tra l'altro mi piacerebbe un giorno parlare, ci sono studenti dalla Germania, dalla Spagna, dall'Argentina, dal Brasile, c'è una studentessa iraniana. Di dove? Romania? Libano, ah, bene. Quindi mi piacerebbe molto, magari anche oggi, se vi va, prima del break, o quando c'è il break, se vedo un attimo che mi piacerebbe moltissimo che questo aspetto di avere appunto studenti che appartengono appunto al punto di lezione, secondo me è la cosa più bella che possa accadere all'università, è una cosa bellissima. Quindi diamo la parola a Gustavo. Ah, bella domanda, perché i bianchi americani già si chiamano WASP, no? Che vuol dire white, anglo-saxon, protestanti. Quindi in genere l'etichetta del bianco è WASP. Non si chiamano, credo, ti do la mia risposta, bianco-europei, euro-bianchi, perché negli Stati Uniti almeno, non so neanche vedere, negli Stati Uniti i cittadini che erano coloni britannici decisero di rompere con la madre patria. Quindi la guerra di indipendenza diretta da Washington contro l'Inghilterra, la Gran Bretagna, tagliò radicalmente il rapporto con l'Europa. Mentre invece la storia delle persone che venivano dall'Africa in condizioni di schiavitù è una storia che non ha avuto un processo di liberazione. Cioè l'ha avuto a partire dagli anni 60, quando c'è stato, ci sono state una serie di movimenti, dicevo questo, delle università, in cui hanno preteso che ci fosse storia e cultura dell'Africa, capite? Che nasce in quel periodo, prima non si insegnavano queste cose, capito? Prima la storia è attualmente questa qui, c'era la Grecia, c'era la Roma, c'era la Mesopotamia, il Rinascimento, era la storia classica che si studia, e l'Africa è questa. Per cui credo che questa sia la risposta, diciamo, sia la tua domanda. Lì c'è stata una frattura, una guerra di indipendenza. Con la schiavitù è un problema che ancora non è risolto. Io dicevo ieri, tu non c'eri, il problema della schiavitù e l'eredità culturale, psicologica, anche economica attualmente, della schiavitù ancora non è risolta. No, e non è risolta. Questo è tuttora uno dei grandi problemi che ci si trova di fronte delle varie Americhe, delle varie Americhe, ciascuna con le sue differenze naturalmente, ma è un problema che ci si trova di fronte. Come affrontarlo? Questo io credo che il corso che sto facendo è anche un tentativo molto laterale di dare piccole proposte di soluzione a questo problema irrisolto dell'autonomia completa, ecco, delle popolazioni che hanno subito a lungo delle discriminazioni così incredibili. A me, un'altra indicazione a me che colpì tantissimo, che ho sentito, racconto questo racconto, che c'è stato un periodo, grosso modo, una ventina d'anni fa, in Brasile, 15 anni fa, stavo facendo delle ricerche su una religione afro-brasiliana, no, che si chiama Candomblé, e sono andato in Terreiro, che è un luogo sacro di questa religione, a partecipare con una madre santo. La madre santo è una sacerdotessa che ha un potere molto significativo in quel Terreiro. E questa qui a un certo punto mi ha detto, parlando, mi ha detto, io mi ricordo che mia nonna mi raccontava che quando era schiava, io quando ho sentito questo, ho sentito, vi assicuro, proprio la pelle che mi si è arricciata. Cioè, è stata la prima e unica volta, veramente, in cui ho sentito una persona che diceva che la dimensione della schiavitù apparteneva alla sua storia. Capite? Per me la schiavitù, insomma, adesso sto un po' esagerando, è passato, è una cosa che apparteneva al passato. Però in parte è vero, io pensavo questo prima di fare delle ricerche, io pensavo che la schiavitù fosse una cosa, certo, grave, drammatica, eccetera, però in qualche modo nel passato. Certo, quando questa Maite Santo, questa donna, mi ha detto che la nonna era schiava, allora certo, mi si è aperto drammaticamente un orizzonte cui non avevo pensato, cioè che la dimensione della schiavitù appartiene all'esperienza personale di tantissime persone. Questa è veramente una cosa che è drammatica, perché mi metteva in discussione, diciamo così, i modi in cui mi relazionavo a questa storia dell'Occidente, che è anche l'Occidente. Poi c'è una domanda. Sì, volevo dire, riguardo a quello che stavo dicendo prima, la discriminazione della media, anche non solo i bianchi, la traduzione non erano le malattie di voce, anche gli italiani, gli italo-americani. Certo, infatti, non so se hai sentito, la discriminazione non era solamente verso gli afroamericani, ma anche verso, per esempio, gli italiani. Certo, non casualmente io ho usato il termine WASP perché la divisione protestante era fondamentale per avere una piena legittimità dei diritti, diciamo così, di una certa. certo tipo di politica di cultura, per cui c'è una dubbio, anche gli italiani sono stati discriminati, figuriamoci, anche i giapponesi, i cinesi, per esempio, le varie minoranze. Tutto questo fa parte di un progetto che ha una connessione con il relativismo culturale, che si chiamava multicultura o melting pot. Conoscete queste cose? La multicultura o melting pot era un progetto basato in parte sul relativismo culturale, che più o meno funzionava così. Qui stiamo parlando degli anni 30. Ogni cultura negli Stati Uniti ha il diritto di affermare la propria autonomia, di vedere il mondo, lingua e via dicendo. Il centro però rimane, è rimasto la cultura WASP. Per cui la multicultura fallisce, perché la multicultura è come se ciascuna, più uso il termine etnia perché riproduce quel meccanismo, ciascuna etnia, ciascuna cultura ha il suo spazio, no? E non comunica con tutti gli altri, comunica solo con un centro che legittima i valori della nazione, che è quella WASP. Allora, in questo senso, la multicultura, che è un concetto che magari poi da noi era un po' in ritardo, perché l'immigrazione in Italia era molto in ritardo, la multicultura entra in crisi. Quindi è difficile poter usare attualmente il concetto di multicultura in un senso, come dire, operativo, che possa modificare le cose contemporanee, l'immigrazione, i contatti, i razzismi, i troppi nazisti che stanno nascendo in Italia. Scusate, lo dico, non c'entra, perché l'antologia protesta su questo. In Italia, in molti aspetti dell'Italia, si sta diffondendo una cultura che legittima atteggiamenti razzisti, legittima in senso culturale, sta nell'aria, no? Allora, la tua domanda mi permette di dire, attenzione, questo aspetto multiculturale, così come era stato programmato e anche discriminato in qualche modo, è entrato in crisi. No, quello è stato successivamente. La mafia non è arrivata immediatamente con l'immigrazione italiana. Poi ci stanno, come si dice, tanti italiani, no? Alcuni riproducevano il sistema, ma non immediatamente. L'esplosione della mafia, come sapete, è a Chicago, grosso modo, nel periodo degli anni 30, prima l'immigrazione italiana inizia già nel 1800 con l'unità italiana. Quindi non c'è, oppure per esempio in Brasile, in Sud America non ci sono fenomeni di questo tipo, per cui è a una certa fase che inizia probabilmente con il proibizionismo, cioè il grande salto. Il proibizionismo favorisce, e vi dico tutta sincerità, il proibizionismo che proibiva, secondo me attualmente l'affermazione sempre più dirompente, non solo di mafia, di strutture criminali, è connesso con la questione delle droghe. E dare una soluzione diversa alla questione delle droghe è veramente uno dei grandi, sì, complicatissimo, ma finché ci sarà questo sistema legislativo, la mafia o le varie mafie mondiali non possono che rafforzarsi. Questa è una legge che favorisce l'affermazione di strutture criminali per il controllo di queste cose. Però questo magari non è per tutto. In Libano ci sono 18 culture, anche in legalizzare, no, mi spiego meglio. 18 religioni, 18 culture. Il Libano è stato, e in parte è ancora, adesso ha dei problemi che un po' sappiamo, ma è stato, è ancora, uno dei grandi paesi dove si sono incrociate più le culture. Per cui il Libano è stato veramente, è ancora, adesso ci sono problemi, diciamo, un po' nel Libano. No, no, no, certo, sono problemi politici, religiosi, eccetera, eccetera. Però senza il però, mi piace il però, il libro veramente è stato un esempio straordinario, è ancora un esempio straordinario di questo mix culturale. Qual è la mia riflessione su questo. È il transito, però ci sono due livelli. Faccio una premessa su una questione che non era all'argomento oggi, ma mi fa piacere modificarla. Il transito prima dalla multicultura alla pluricultura. Allora, la multicultura è questo che abbiamo detto, no? Ciascuna cultura sta nel suo ghetto e la regola è data da una cultura, che è quella WASP, modello Stati Uniti. Il modello Libano, vediamo però se sono bravo su questo, se mi aiuti, ne sono felicissimo. Il modello libanese è probabilmente pluriculturale, cioè non c'è la cultura WASP o una cultura che centralizza tutto. Io penso che attualmente c'è un problema di questo tipo. C'è una cultura, una religione che cerca un po' di affermare una centralità, e questo è un problema che non so quello del Libano. Sì, sì, sono d'accordo, magari andiamo meglio su questo, però ti volevo dire che probabilmente il Libano è più un'intercultura, cioè ci sono tante culture, le nove che tu hai detto, con le lingue che ho detto, ma non c'è una cultura egemonica. Ecco, e questa è la differenza. Allora, se questa è la differenza, è importantissimo, perché vuol dire che stiamo in un contesto pluriculturale. E non è la differenza da poco, perché multicultura ha come matrice un tipo di politica che è stata la politica degli Stati Uniti, e che negli stessi Stati Uniti si dice che non funziona, non è che sono io. Allora, pensare in termini di pluricultura o di intercultura, scusate, intercultura è un termine più preciso, e infatti ci sarà una materia nella nostra volontà, che tra l'altro insegnerò anche io, che si chiamerà intercultura, processi di comunicazione interculturale. Credo che però, adesso non ricordo se per il triennio o gli anni successivi. Quindi certamente la dimensione interculturale è qualcosa di diverso dalla multicultura. Ma anche lì ci sono dei problemi che adesso non affrontiamo, però mi fa piacere, se sei d'accordo con me, che il Libano è interculturale più che multiculturale. D'accordo? È un modo di organizzarci, le parole sono, hanno un senso quando noi ne diamo un significato che è parziale. In italiano. Va benissimo, si capisce. Thank you. La mia risposta su questo è diciamo così, cerca di essere semplice. Questa statua ha come nome generico quello di Fetice. Per questo secondo me difficilmente ci può stare la Madonna, perché il feticcio, qui io non vorrei anticipare, questo come dicevo, il feticismo sarà il tema della seconda parte delle lezioni, e il feticismo, il feticcio nasce dall'incontro tra portoghesi come colonizzatori e le culture africane, che non riconoscevano appunto un valore soggettivo, religioso, culturale a queste popolazioni, e una statua di questo tipo o di altro tipo era chiamata feticcio. Per cui, e che vuol dire feticcio? Io adesso non entro più per una risposta, vi rinvio alle prossime lezioni, ma questa forza, secondo lo stilista, di questo tacco deriva dal fatto che attira un tipo di potere che è un potere feticista, e la scarpa è uno, diciamo, dei luoghi, è uno delle cose, non so dire, degli oggetti più feticisti che si possono immaginare. Per cui, diventando feticista, non diventa oggetto, ma diventa soggetto feticista, anche senza nome, ma è soggetto. Allora, questo aspetto di feticizzare esplicitamente con una statua, credo che sia un'operazione che si può criticare o meno. Io adesso qui non ero tanto interessato a criticarla, ma ero interessato a capire il perché uno stilista molto noto oggi fa una cosa del genere. Allora io, più che dare la risposta conclusiva, vi presento di nuovo la domanda: perché nella nostra situazione, una delle sfilate a Parigi, tra l'altro, cioè nel momento tra i più agili delle sfilate, Galliano, uno dei massimi stilisti, fa una cosa del genere. Che vuol dire? Capite? Ed è possibile, come vedremo successivamente, che il feticismo, un nuovo tipo di feticismo, sia la chiave di penetrazione di questa forma della moda, che non è solamente la moda? Questa è la domanda che vi pongo, e mi ripropongo di dare le mie risposte successivamente, e se siete d'accordo passerei a Gregory Pearson. Siete d'accordo? Partitare il fatto? O se c'è un'ultima domanda, se no passerei a Gregory Pearson. C'è un'ultima domanda? Se non che scopre la prima guerra mondiale, e il primogenito muore nella Francia, nella battaglia, non mi ricordo quale. Allora la pressione della famiglia, in partito dalla madre, si dirige verso il secondo genito, e il secondo genito, il giorno della morte del fratello, si uccide, drammaticamente si uccide. E già questo, secondo me, dà il senso di una tensione che c'è dentro la famiglia, tensione che, come potete immaginare, si dirige tutta verso Gregory, e in particolare la madre vuole che lui diventi appunto il nuovo studioso di genetica. E Gregory che fa? Inizialmente aderisce a questa gabbia, diciamo così, materna, familiare, poi a un certo punto, laureato, gli si offre la possibilità di fare una ricerca in Nuova Guinea. E lui che fa? Lascia la biologia, sposa l'antropologia, lascia l'Inghilterra e parte per la Nuova Guinea. Parte per la Nuova Guinea e inizia a fare una ricerca abbastanza lunga su una cultura che si chiama Yatmul, si chiama Yatmul con la IA, Yatmul. E di questa cultura analizza anche lui solamente un rituale che si chiama Naven, con la nave, Naven, e che è anche il titolo del suo primo libro, e unico antropologico in senso stretto, Naven. Era un rituale molto bizzarro, diciamo, usando dei termini eurocentrici, era un rituale di questo tipo. Lo zio materno, vedete, ci troviamo sempre di fronte allo zio materno, questo zio, questa figura maschile che ha una serie di autorità molto forti rispetto al nipote, lo zio materno durante questo rituale si traveste da donna e cerca di sedurre sessualmente il nipote. Fa una danza seduttiva per incitare il nipote. Quindi, prima lo zio materno assume dei tratti di inversione sessuale, diventa donna, e poi, diventando donna, cerca di eccitare sessualmente il nipote. Allora, questo rituale appunto, diciamo così, singolare dal punto di vista della cultura occidentale, lui cercò di interpretarlo. E qui entriamo dentro, secondo me, una storia che è veramente interessante. Lui capiva, credo, che quando iniziò a scrivere, affrontava il male da un punto di vista, e da quel punto di vista, diciamo sociologico, trovava una soluzione che aveva delle coerenze, era una soluzione paradigmatica rispetto a quella prospettiva sociologica, che però lo lasciava insoddisfatto. Per cui che faceva? Nel testo, nel capitolo successivo, analizzava lo stesso rituale, ma da un'angolazione differente, per esempio psicologica, e poi da un punto di vista ancora differente, per esempio economico, e poi simbolico. Praticamente lui elaborò un sistema che non è solamente di scrittura, ma anche metodologico, diciamo concentrico, no? Anelli concentrici. No? Il rituale nave sta al centro, e ogni volta lui cerca di afferrare questo centro, questo rituale, con un tipo di punto di vista, ma capisce che ogni punto di vista ha una parte di verità, ma non ce l'ha tutta. Capisce che per capire un rituale, per quanto semplice o complesso, non è più sufficiente avere un'angolazione. Ma le varie angolazioni si devono sovrapporre. Lui inventa una cosa non è straordinaria. Dice: il modo in cui io metto insieme i dati è il metodo. So se il modo in cui io metto insieme i dati è il metodo. Detto in altri modi, ce lo dirà un altro grandissimo autore tedesco, berlinese, che non ha mai conosciuto bene, ma si sarà per voi fondamentale, tanto quanto penso, si chiama Walter Benjamin, grande studioso, e spero che voi conosciate, io di primo anno magari no, ma lo conoscerete. Walter Benjamin, così come penso, dirà: il metodo è il montaggio. Il metodo è il montaggio. Il montaggio dei dati o delle angolazioni è il metodo. Questo per me è stata una delle soluzioni più affascinanti nella storia, diciamo, della ricerca. Perché Bateson capisce che ogni maniera in cui noi guardiamo un tratto culturale, per esempio un rituale, è parziale, e tanti più sguardi noi indirizzeremo verso questo rituale, e tanto più noi ci approssimeremo, diciamo, alla verità che sarà sempre parziale. Si devono moltiplicare gli sguardi sulla cosa, sul rituale, ma per quanti sguardi noi moltiplichiamo, questi sguardi saranno sempre parziali. Noi non prenderemo mai la cosa, capite? Non afferreremo mai la verità del rituale nave. La verità conclusa non ci sarà mai. Ed è una cosa secondo me straordinaria, anche dal punto di vista, diciamo così, filosofico. Perché un rituale è sempre altro da me, dalla mia esperienza. Io non lo potrò mai assimilare totalmente, non lo potrò mai acchiappare del tutto. Se lo acchiappassi del tutto, io sarei il rituale, capite? Cioè Dio in qualche modo. Quindi affermare il principio che la ricerca non potrà mai dare la risposta, neanche finale, quantomeno totalizzante, a un rituale, e sta dentro appunto un tipo di impostazione che non ha soluzione, come posso dire, non c'è una soluzione definitiva a capire un rituale. Non ci sarà mai una risposta, né una soluzione alla comprensione di un rituale, comprendere, perché comprendere, anche a livello tecnico, comprendere significa afferrare, comprendere, circondare, comprendere, prendere, rinchiudere il rituale in una struttura logica. Allora la dimensione del comprendere, come rinchiudere dentro un anello ideologico, questa cosa penso non la sopporta, la capisce e non gli funziona e fa esplodere i metodi. Li moltiplica, e li moltiplica affrontando quello che lui definisce, definisce il concetto di ethos. Lui elabora il concetto di ethos, che in inglese si chiama TH, ma anche diciamo la legge greca, che è il modo standardizzato con cui le emozioni si presentano. Ethos è il modo standardizzato di una cultura chiaramente, in cui le emozioni si presentano. Quindi Bateson, come vi avevo in parte accennato ieri, Bateson studia le emozioni, capite? Studia le emozioni, non le sue in questo momento, studia le emozioni degli Atwood, studia questo ethos, questo modo standardizzato in cui le emozioni provocano, che è chiaramente il rituale, è un rituale in cui le emozioni ti brigano. Immaginate un uomo, un zio, un travestito da donna che eccita il nipote, è un fibrillare di emozioni. Allora come si manifestano le emozioni? Questo era il problema di Bateson. E questo manifestarsi delle emozioni La sua risposta sarà un montaggio, un assemblaggio di punti di vista che potrebbero essere infiniti. Per cui la sua conclusione è: l'antropologia in qualche modo è così o fallisce. E quando questo libro arriva a Malinowski, Malinowski dice: mi dispiace, caro Gregory Benson, ma lei sta fuori dell'antropologia. È incomprensibile, non si usa, non solamente non si usa il metodo funzionalista, ma questa pretesa di mettere insieme tanti metodi, assemblarli uno dentro l'altro, cercando di centrare questo rituale, anzi senza centrarlo, perché alla fine non c'entra, questo non è il metodo scientifico. Questo è il diagnostico. Quindi mi dovevo immaginare quello che poi c'era la domanda. Sì. Mi chiedevo per quale motivo c'è una ricerca della verità in qualcosa che appartiene a un popolo da secoli. Perché c'è la ricerca della verità in un popolo che appartiene da secoli? Perché questo è l'Occidente. L'Occidente ha al suo interno, questo è caratteristico di una razionalità. Dicevo occidentale, la razionale occidentale nasce con questa tensione verso l'altro per comprenderlo, come dicevo, comprenderlo per afferrarlo, per interpretarlo e controllarlo e in gran parte dominarlo. Quindi dentro l'Occidente c'è tutta questa tradizione, che la sollecitazione che vi sto facendo è che questa sollecitazione, questa tensione alla comprensione dell'altro fa parte di un modello di razionalità. Quindi è questa razionalità occidentale che ha questa tensione, e per questo la mia proposta è: attenzione, cerchiamo di vedere come si possa mettere in discussione, senza cadere nell'irrazionalismo, una forma di razionalità. Questa è la cosa. Bene, questa è, diciamo, la prima ricerca. Lì che fa? Alla fine incontra Margaret Mead, che vedete sono un po' anziani qua. Margaret Mead è una figura mitica dell'antropologia. Lei era la discepola prediletta, niente meno, dell'inventore del termine relativismo culturale, che si chiama Boas, Franz Boas. Questo ricordate, Franz Boas era di origine tedesco, che emigrò negli Stati Uniti e fu colpito dalle lezioni di Freud. Freud, non so se ricordate, arriva negli Stati Uniti, fa le sue celebri lezioni, non porta la peste, come si dice, non porta la peste, e Boas dice: ma sarà che Freud ha ragione? È un discorso analogo e diverso da Malinowski. Sarà che è così che la sessualità viene vissuta in culture differenti? Sarà che la sessualità è quella che parla Freud? O è quella di cui parla Freud che è un tipo di sessualità? E allora che fa? Margaret Mead è una, sono due le discepoli, una delle sue, la invita a fare una ricerca su questo tema, sulla sessualità nel fascismo. Margaret da sola, giovanissima, parte, va a Samoa, un'isola famosa anche nel nostro immaginario, no? Negli anni passati, non so adesso voi se avete una visione di Samoa, ma all'epoca, insomma, Samoa era donne, belle, così, queste cose di libertà sessuale. Insomma, va sola a Samoa e inizia a fare una ricerca sulla sessualità. E la fa inizialmente a Samoa, però la fa in 7 culture del Pacifico, quindi una ricerca complessa. Lei era interessata su come la psicologia e in particolare l'allattamento influenzasse una cultura. L'allattamento, psicologia, tecniche del corpo, sessualità. C'è una relazione tra allattamento e sessualità? Questa è un'ipotesi di ricerca. Allattamento e sessualità, c'è una relazione? Sì, Freud fa un modello. Certo, il Freud fa un modello unico. Certo, anche il Freud. Infatti vi dicevo, Boas sollecita questa ricerca da parte di Margaret Mead per verificare se le ipotesi di Freud sono universali. Certo che Freud lo dice. E la ricerca, la conclusione, che diventava un libro molto famoso, si chiama Maschio e Femmina, che è molto bello perché maschio e femmina, Margaret affronta sia la sessualità nelle culture del Pacifico ma anche negli Stati Uniti. Quindi fa una comparazione, no, tra come la sessualità è vissuta in sette culture differenti e come è vissuta negli Stati Uniti negli anni 40-50. E la sua conclusione all'epoca era scandalo, attualmente magari meno, ma all'epoca lei disse: attenzione, la sessualità è modulata storicamente. Noi viviamo negli Stati Uniti un processo di sessuofobia in cui la donna è discriminata, il maschio è costretto a chiedere sempre di più e la donna è costretta a dare sempre di meno. Questo meccanismo diventa un meccanismo così perverso che quando il sesso sarà legittimato, per esempio dal matrimonio, la coppia non funzionerà. Lei è abituata a diventare sempre più frigida, lui è abituato a diventare, insomma, le cose non funzionano. E quindi fa un'analisi molto attenta sui meccanismi di repressione sessuale della famiglia e della società statunitense e dice: attenzione, perché non apprendiamo da Samoa? Dice: attenzione, questi modelli sono modelli storici. Perché non apprendiamo da Samoa? Perché a Samoa la sessualità è vissuta in un altro modo. Non è il modo totalmente libero, come a volte le fantasie, no? Un po' alla Rousseau si dice, ma certamente non è traumatica, o almeno non ha quei traumi, non favorisce quei traumi che nella cultura statunitense, ma anche occidentale dell'epoca erano fortissimi. E dall'epoca iniziò un processo molto polemico, prima negli Stati Uniti, poi in altri paesi, su questo. Sarà che la famiglia si trasforma? Sarà che la sessualità, la famiglia, questi due temi possono percorrere itinerari differenti? E perché, vi dico un esempio, una conclusione, ci sono sempre in Nuova Guinea, lei scopre che ci sono due culture molto vicine. Una si chiama Arapesh. Gli Arapesh, la donna allatta il bambino anche fino a 3 anni, a volte 4 anni. Sapete che l'allattamento prolungato favorisce anche la non fertilità da parte della donna. Quindi in parte c'è una tecnica di contraccezione, diciamo così, no? L'allattamento. Ma questo favorisce un tipo di comportamento, di cultura, del bambino quando diventa adulto, che era molto espressivo. In genere gli Arapesh non accettano di fare la guerra, questa era la conclusione. Se vengono attaccati si spostano. I rapporti tra i sessi sono più paritari e le relazioni sessuali sono dolci. Il mondo Gomor, che sono quasi vicinissimi agli Arapesh, il mondo Gomor, sempre in Nuova Guinea, la mamma stacca il bambino dal suo seno prestissimo, no? È come se non lo volesse allattare, è come se l'allattamento fosse una pena per lei. E il mondo Gomor sono guerrieri, sono violenti, sono aggressivi, e la sessualità, lei lo dipinge, il rapporto sessuale è come una sorta di incontro di box. Questo testualmente, così lo dice. La sua prima conclusione, che poi lo vedremo successivamente, è che appunto le tecniche di allattamento non sono naturali. Le tecniche di allattamento e il modo in cui si allatta il bambino è un processo culturale, sono modelli culturali. Il termine che sarà elaborato un po' prima è pattern. Quindi sogniamo questo termine, pattern, che vuol dire in genere modello culturale. Quindi vi è un pattern, vi è un modello di allattamento. Non so se sapete, la pecora, i bambini in Europa vengono fasciati, le gambe vengono fasciate. E strettissime erano fasciate, perché gli si dava non solamente le gambe non dritte, ma gli si raddrizzavano anche dal punto di vista morale, no? Il corpo era dritto, sono tutti strumenti pedagogici, no? Per far tenere dritta il corpo del bambino e della bambina. E l'allattamento era fatto in un certo modo, in genere all'epoca era un allattamento molto rigido, si allatta in certe ore. E un pediatra che è stato influenzato da Margaret Mead, mi pare anche da Gregory Benson, perché erano già sposati, elaborò per primo un modello di allattamento per l'Occidente che era molto più duttile, molto più decentrato. Insomma, le tecniche di allattamento, per esempio in Brasile, una delle grandi questioni dell'allattamento è che si tende, specialmente certi strati della popolazione, a usare il latte artificiale Nestlé. Quindi la donna, più che allattare il proprio figlio, usa il latte artificiale. No. Allora, tutto questo non appartiene a una dimensione appunto naturale, ma sono scelte che a volte si fanno più o meno consapevolmente, ma che informano la personalità del bambino e quando diventerà adulto, in qualche modo appunto sarà presente tutto questo. Bene, abbiamo 15 minuti, su questo vi dicevo che i due si incontrano, torniamo sul lato personale, in Nuova Guinea, nascono, lei era sposata, Margaret è stata una donna molto libera sessualmente, come potete immaginare, ci sono anche molte battute, diciamo, sulla libertà sessuale, molto libertà, lascia il suo compagno e si sposa con Gregory Benson. Perché si sposa? Si sposano perché decidono di fare insieme una ricerca a Bali, quella che adesso Bali è una isola o di turismo, recentemente ci sono stati degli attentati gravi, gravissimi. Bali, che sta vicino alla Nuova Guinea, decide di fare una ricerca lunga di almeno 2 anni a Bali. E decidono, ecco la prima immagine di questa Bali, di andare lì con un tipo di metodologia differente. Perché? Gregory era stato criticato da Malinowski perché, affrontando la questione delle emozioni, era stato criticato in quanto soggettivista. Poi aveva questo metodo bizzarro, no? Che moltiplicava le angolazioni, per cui era stato criticato dagli antropologi istituzionali per eccesso di soggettivismo. Margaret pure era stata criticata perché i suoi primi libri, che sono scritti molto in un modo narrativo, vengono considerati come libri impressionisti. E allora decidono di utilizzare per questa ricerca una metodologia che sia, secondo il paradigma dell'epoca, oggettiva. E questa tecnica, che all'epoca si pensava fosse oggettiva, è cinepresa e macchina fotografica. Andiamo lì e usiamo cinepresa e macchina fotografica per capire la cultura balinese. E qui nascono una ricerca che a mio avviso è una delle ricerche più belle che si possa immaginare. Il libro si chiamerà Balinese Character, cioè il carattere balinese. Un libro che purtroppo non è stato tradotto in italiano, ma che è un libro veramente innovativo, e ancora, secondo me, il libro più innovativo dal punto di vista dell'antropologia visuale, e non solo. È come se Gregory in qualche modo continuasse lo stile di Naven, cioè è un libro fatto di assemblaggi, solo che gli assemblaggi qua sono fatti anche con fotografia e video, e ma ci sono la cinepresa, la cinepresa, e vi ho portato un filmato di Gregory Bessel e Margaret Mead, che è ancora veramente straordinario, che si chiama Trance and Drama Applied, che dopo vedremo. Io vi faccio ancora una cosa, se volete, invece di fare il break, ci vediamo, oppure facciamo il break, quel video, che volete fare? Dura un quarto d'ora il video. A me fare il break, non volete fare. Allora, possiamo venire d'accordo così. Io vi introduco ancora un po' questa parte della ricerca e poi chiaramente, scusa, mi ero dimenticato, vi devo mostrare due video assolutamente, perché il modo in cui vi presenterò questa lezione è anche il metodo. Vi mostrerò il film breve Trance and Drama e poi una sequenza di un film celeberrimo che si chiama in italiano impregnamente Gioventù Bruciata e che in inglese era Rebels Without a Cause, che è, perché ve lo mostro, di Nicolas Ray, un grande regista degli Stati Uniti, perché in questo film capirete il concetto di doppio vincolo, perché adesso vi presenterò due concetti, doppio vincolo e ecologia della mente. Questi due concetti, per farvi capire meglio, anche io per capirli meglio, utilizzo appunto due strumenti, che è il film di Bezzo e quello di Nicolas Ray. Quindi se siete veloci, se in 10 minuti vi fate la scritta, tornate. Poi a me farebbe piacere che gli studenti stranieri, non so come vi chiamate, che magari mi vedete un attimo, mi farebbe piacere fare un piccolo incontro. Tu sei cittadina italiana? Sì, sì, ho la doppia cittadinanza. Le regalo, è Pablo Neruda. Pablo Neruda? Sì, sì. Professore. Sì. Quindi vedete questi termini sono incontrati. e faranno questo libro bellissimo, dicevo, che si basa su sequenze di fotografie per tratti culturali omogenei. Sequenze di fotografie, vedete, questa è una sequenza, non è la fotografia. Vedete, qui già Gregory diciamo, innova il metodo della ricerca visuale, è appunto una sequenza per una unità coerente culturale, che è in questo caso la danza. Metteranno in questo libro, credo che farà tipo 20.000 fotografie, è diverso filmato, e nel libro ce ne saranno solamente 700 rotte di queste fotografie, e sono ordinate per un centinaio di tavole, e ogni tavola, come dicevo, è una sequenza. Già in questa sequenza potete vedere come, sapete, la danza e la musica balinese è qualcosa che ha profondamente, non solamente diciamo, delle radici nel senso buono del termine, a Bali, ma ha influenzato tantissimi aspetti anche della nostra cultura. Qui vi devo dire, purtroppo, devo fare delle piccole variazioni. La principale delle quali è la trance, di cui oggi almeno parlerò poco, però parlerò di più in altre occasioni. La trance è questo aspetto affascinante, complesso, doloroso e desiderante di avere, di attraversare un'alterità, di essere altro, di avere uno stato alterato. Il termine antropologico è questo, stato alterato. Stato alterato prima si diceva di coscienza, ma stato alterato di coscienza, nel termine di coscienza può sembrare, diciamo, sia ambiguo. A volte si dice anche stato alterato del corpo, che se si è d'accordo in questo termine è meglio. Comunque, stato alterato nel senso che è un'alterazione del corpo. E i balinesi hanno un insieme di rituali che si basano su questa alterazione. Che cos'è l'alterazione? Che cos'è la trance? È uno dei grandi temi della ricerca antropologica. Ed è un tema che sempre di più poi sta entrando dentro delle ricerche, delle esperienze, diciamo, delle culture metropolitane. No? Tanti segmenti giovanili cercano di sperimentare questa alterazione, o con le droghe, che secondo me insomma, è un problema, o viceversa, con altri elementi, che insomma è una questione che dal punto di vista antropologico deve essere affrontata come ricerca. Accade che i balinesi, più o meno in questo periodo, furono invitati alle esposizioni universali di Parigi. Sapete, le esposizioni universali erano anche dei luoghi dove si esponevano non solo le merci, per far vedere che la merce è veramente il livello più alto della civiltà occidentale. No, l'esposizione universale nasce per far vedere che la merce, l'industria, è il momento alto della civiltà in generale e quindi di quella occidentale. Accanto alle merci, in tutte le esposizioni, si mostravano persone di altre culture. Si voltavano i bizzarri, quelli che si chiamano anche i freaks. No, persone, appunto. Cioè, dall'esposizione incrociava la fiera, dove c'era la donna barbuta, la volta più grande del mondo, tutte queste cose qua. E in una di queste, appunto, a Parigi, arrivarono i balinesi, fecero questa musica, andarono in trance, di la cosa ne può chiara, e era presente una delle personalità più significative che sarà del teatro, che si chiama Artaud. Che vi invito a sognare, Artaud, Artaud. Artaud vide questa performance e dirà: il teatro in Europa non potrà più essere uguale. Il teatro di parola, il teatro psicologico è morto, è un teatro, diciamo, sicurezza. E elaborerà una teoria, il teatro del suo doppio, basato su una corporalità crudele. Vuol dire crudele, per me, adesso non entriamo dentro. Ma è certo che l'Europa sentirà, dopo questo primo incontro, per quanto complicato, a Parigi, che è il teatro delle modificarsi, che è il teatro con le storie, col triangolo, eccetera, eccetera, insomma, del taglio di parola, è morto. Quindi da lì nasce tutto l'itinerario, che spero che voi conosciate, di un teatro non basato sulla parola. Nello stesso tempo, qui c'è una grande studiosa di musica, in Baviera si fa una musica, mi piacerebbe farvi sentire, adesso non ce l'ho purtroppo, è una musica molto iterativa, per percussioni, molto ipnotica, che costantemente produce, riproduce un tipo di timbricità che favorisce chiaramente uno stato di alterazione. Bene, quando questa musica fu scoperta, entrò in alcune avanguardie, specialmente newyorkesi, e favorì un tipo di sperimentazione musicale che in genere si chiama minimalismo musicale, termine un po' ambiguo, però insomma io spero che lo conosciate, se non lo conoscete proprio lo potrò sentire in una lezione, Steve Reich e Philip Glass, due musicisti che hanno trasformato moltissimo la sensibilità musicale contemporanea, nel senso degli ultimi 20 anni, e entrambi sono stati influenzati profondamente, non solamente, ma profondamente anche dalla musica balinese. Quindi, per prendere la metafora di Margaret Mead, apprendiamo da Samoa dal punto di vista sessuale, ma si può apprendere da Bali anche dal punto di vista teatrale e musicale. Per cui molte delle musiche e del teatro e della danza che noi vediamo adesso hanno come influenza una rielaborazione della musica e del linguaggio del corpo balinese. Vedete qua il maestro, questo colpì moltissimo i nostri due amici, il maestro non insegna all'alunno con parole, capite? Insegna all'alunno con il corpo. Il bambino è preso, vedete, in questo modo dolce e sorridente. Questi sono gli strumenti musicali, vedete sullo sfondo, il gamera, sono gli strumenti musicali, le percussioni. E il maestro prende le mani e muovendo l'alunno insegna corporalmente come danzare. Quindi l'apprendimento è un apprendimento basato nel corpo. E questo era una cosa che all'epoca, in gran parte ancora adesso, è molto significativa, no? Le relazioni che si stabiliscono tra i due, tra l'uno e il maestro, è una relazione di profonda continuità. Vedete anche le gambe fanno parte della didattica, vedete le gambe come stringono le vite del bambino? Le dita, qui c'è tutto un apprendimento, c'è un linguaggio delle dita che è molto diverso, è un vero e proprio linguaggio, quindi non solamente il corpo ha un linguaggio, ma in tutta una matrice indiana che arriva fino a Bali, la cultura indiana dell'India ha influenzato in parte Bali, e quindi quello che si chiama in India mudra, cioè appunto il linguaggio del corpo basato sul movimento delle dita, che raccontano delle storie, ecco, è appreso corporalmente, musicalmente. Questo già è un primo livello per loro, no? E anche per noi, chiaramente nel loro interesse. Qui c'è un'immagine della trance, però ve la farò vedere dopo il video. E entriamo nei due concetti più importanti di cui voglio parlare, che sono il primo, il doppio vincolo, e il secondo, ecologia della mente. La parte significativa che ci tengo proprio a sottolineare è che questo concetto, doppio vincolo, in inglese double bind, nasce da questa ricerca. E quindi la ricerca etnografica è fondamentale per l'elaborazione di un concetto che poi sarà applicato in tanti altri aspetti della comunicazione. Voglio studiare la comunicazione e la comunicazione cambierà dopo che Gregory ha elaborato questo concetto. Doppio vincolo. La comunicazione, il corpo, la famiglia e l'amica sono tre livelli interconnessi successivamente dai grandi presa. Però diciamo, se l'aspetto fondamentale è che la ricerca etnografica soltanto che fa emergere un concetto, non è la riflessione teorica, quindi è la ricerca, è stare nell'aspetto polveroso del campo. Allora, per spiegarvi il doppio vincolo, vi presento e vi interpreto veramente come interpreta credo, invece, questa celebre sequenza, una sequenza celeberrima, che è basata appunto sulla tecnica dell'allattamento. Come vi ripeto, l'ipotesi, il carattere sta nel corpo, e dove si forma il corpo e il carattere? Certamente abbiamo visto nella danza, però anche principalmente nell'allattamento. Questa era ancora più forte l'ipotesi dei due ricercatori. Allora, nella prima sequenza vediamo, la prima immagine, vediamo la madre e il bambino che sono uniti, e la madre, dice Gregory, sta tentando di avvicinare il bambino a sé, vedete che è un po' distratto, sta guardando da altre parti, e lo accarezza, accarezza anche i genitali per renderlo un po' più disponibile, una tecnica che si usa in molte culture, e alla fine, nella terza immagine, vedete, la madre ha successo, il bambino comincia a essere attratto dai segni della mamma, e già quando questo bambino è attratto, la madre sta guardando da un'altra parte. Il bambino si avvicina al seno, inizia a succhiare, a prendere il latte, e la madre sta in una, sta fuori, sta in un'altra dimensione, sta lontana. Il bambino cerca di sollecitare anche il secondo seno materno, la madre però non continua in questa sua, in questo suo transito, diciamo così, mentale e corporale. L'ultima sequenza, l'ultima immagine, sia la madre che il bambino dirigono lo sguardo, sembra detto, verso la camera della cinepresa, sulla macchina fotografica, e dice Gregory, sono entrambi bored, sono entrambi frustrati, una frustrazione attraversa tutti e due. Questa tecnica di allattamento sarà analizzata molte volte da Gregory e Margaret, e il risultato finale è questo qui. Quando il bambino sta lontano, la madre lo attira. Che è successo? Quando il bambino sta lontano, la madre lo attira. E quando il bambino si avvicina, la madre si allontana. In questo modo, dice Gregory, il bambino non riesce a capire il messaggio della madre. Questo messaggio di attrazione quando lui è lontano è come se lui si avvicina, la madre si allontana. Quindi è quindi un complicato sistema comunicazionale che lui non riesce a sentire, a capire esattamente. Che vuole la madre? La madre che vuole? Vuole il suo bene solamente quando sta lontano, e come gli sta vicino si distrae? Questo meccanismo, che appunto chiamerà doppio vincolo, dopo il bambino, credo che poi lo applicherà nella famiglia americana degli anni 50 in California, e fonderà la celebre scuola di Palo Alto. E la celebre scuola di Palo Alto è ancora una scuola, una grande scuola di comunicazione. E lui, anche in quel contesto, vede che le famiglie, alcune famiglie, hanno una dimensione patogena. Gregory rilevò questo: ci sono delle famiglie in cui tutta la tensione familiare, l'aggressività, la discriminazione, si indirizza verso una persona singola, verso un figlio. Questo figlio, Gregory lo chiama la vittima. Questo bambino, questa bambina, riceve dei messaggi contraddittori da parte della madre. L'esempio che fa Gregory è bellissimo, secondo me, drammatico. La madre dice al figlio: vai a letto perché sei stanco. Vai a letto perché sei stanco. Allora, che cosa significa questa frase? Vai a letto perché sei stanco. Questa è una, diciamo così, è una frase che ha un livello metacomunicativo. E per favore dovete assolutamente intendere che vuol dire metacomunicazione. La metacomunicazione è comunicare sulla comunicazione. E si comunica sulla comunicazione non con il linguaggio verbale, ma si comunica sulla con la comunicazione con un linguaggio che può essere verbale, il tono della voce, il contesto. A Roma si chiama anche l'antifona, no? Qualche cosa che si capisce, no? Che sta nell'aria. Allora, a livello di metacomunicazione, vai a letto perché sei stanco, vuol dire: senti, vattene a letto perché io adesso mi hai stufato, io ho da fare le mie cose, per favore, vai a dormire. Questo è il livello metacomunicativo. Il bambino, se riesce a capire la metacomunicazione, che la madre è stanca di lui in quel momento, se ne va a dormire e finisce là. Ma ci sono dei bambini, dice Gregory, che non hanno questa capacità, non riescono a metacomunicare. E non riuscendo a capire un significato altro da quello letterale, vanno a letto e diventano stanchi. Cioè non riescono a capire il linguaggio metaforico. Detto in altre parole, la metacomunicazione è basata anche sul linguaggio metaforico. E la metafora è fondamentale per capire la comunicazione. Noi comunichiamo per metafore, chiaramente, sempre, costantemente. Se io dico a te che sei bella come un fiore, e se tu capisci che è una metafora, tu capisci che vuol dire. Ma se tu non capisci la metafora, il panico si può prendere in te, perché tu ti senti fiore o foglia, no? Perché fiore è una metafora. Questi bambini, queste vittime della metacomunicazione e di un tipo di famiglia, hanno un terrore, hanno un panico. Il panico è quello di perdere l'amore materno. E l'amore materno lo perdono, pensano di perderlo, quando la madre manda loro dei messaggi strani che non riescono a capire. Allora, in questo caso, vai a letto perché sei stanco, piuttosto che capire la metacomunicazione, cioè che la madre è stanca di lui, piuttosto che accettare che la madre non gli sta dando amore, diventa stanco. E il suo corpo diventa stanco, capite? È come se la stanchezza entrasse dentro il suo corpo e lui va a letto e dorme. Allora, se questo messaggio, se questo metamessaggio, dice Gregory, è ripetuto con una certa continuità al bambino, il bambino si addestra, viene addestrato a non capire la metacomunicazione e a scambiare le metafore per realtà. E se scambia le metafore per realtà, entra in panico. E perché entra in panico in questo caso? Perché non vuol perdere il più prezioso dei beni, l'amore materno. E allora la madre, appunto, per prendere le connessioni, sembra dare dei messaggi per cui: perciò io ti voglio bene solamente se tu stai lontano da me. Se tu mi stai troppo vicino, io non ti sopporto. Molte madri hanno un terrore di un eccesso di vicinanza del figlio, ma nello stesso tempo non mai potrebbero ammettere di non amare il figlio. Per cui a questo figlio gli danno questo doppio messaggio: certamente io ti amo, sei mio figlio, ma stammi lontano, perché se tu mi stai troppo vicino, io entro in panico, io madre. Io non controllo le mie emozioni e quindi ti respingo. Quindi il meccanismo più o meno è uguale. Quando tu mi stai lontano, io ti avvicino, ti faccio le coppe, eccetera, ma come tu ti avvicini, io ti allontano. In questo modo la madre dà due messaggi tra loro contraddittori, no? Di avvicinamento quando lontano, di lontananza quando è vicino, e il figlio che cresce, il figlio è preso da un doppio vincolo, dice lei, e il figlio non sa scegliere. La madre che vuole che sto lontano o vuole che sto vicino? E poi siccome sto lontano mi avvicino, lei mi respinge, ma se mi respinge vuole che io sto vicino, e che devo fare? Preso da un doppio vincolo, il bambino si schiaccia sui livelli comunicazionali di primo livello. Per cui, dice Gregory, tanti esempi sulla comunicazione, se al cinema vede l'esempio della radio, se alla radio un personaggio famoso sta male, la radio, nel senso sta facendo una trasmissione in cui rappresenta una malattia, la rappresentazione della malattia è la malattia. Per cui i bambini non capiscono, questi bambini a doppio vincolo, quando la recita rappresenta qualcosa di altro. Che vede che il meccanismo del doppio vincolo, adesso me lo riassumo, non è solamente un meccanismo che prende dei bambini, dette appunto le vittime, che poi diventano schizofrenici, perché in un momento questi bambini poi hanno una storia schizofrenogena. Ma dice Gregory, questo modello comunicazionale, la difficoltà a me da comunicare, a capire che il cinema sta comunicando sulla comunicazione, questa difficoltà è una cosa che lui non usa il termine, usa la radio, usa anche il cinema, anche strumenti di comunicazione in massa lo diffondono. E allora la domanda che ci poniamo, quando noi affrontiamo i termini di normalità e devianza, voi sapete questi termini in antropologia, in psicanalisi, sembrano pochissimo. Chi è normale e chi è deviante? Certo, un bambino schizoide ha processi di, che possiamo dire, patologici, per cui Gregory come psichiatra, anche, ma lui diventa anche psichiatra, cerca di aiutarli, però il problema è che c'è un limite molto indefinibile tra chi è normale e che patologico. Insomma, la comunicazione nemica, e questa è la conclusione, che non chiude la porta, grazie. È che la difficoltà a metacomunicare, a capire che è una metacomunicazione, è anche una normale anormalità diffusa dalla pubblicità, dal cinema, dallo sport, da molti, da radio, da molti mezzi di comunicazione. Sì, grazie. Allora, la difficoltà a metacomunicare, cioè se io sto al cinema, io imparo a metacomunicare perché capisco benissimo che, come si chiama, Harrison Ford è l'eroe, adesso non mi ricordo, non mi viene. Indiana Jones, cioè Indiana Jones è Indiana Jones, e io vado al cinema che visto che c'è un attore che sta interpretando Indiana Jones e che poi c'è il teschio eccetera eccetera, tutto quel meccanismo che è il cinema, allora io spettatore non capisco più esattamente qual è il limite tra finzione e realtà, perché il cinema è fatto in modo tale per cui in qualche modo io entro dentro una struttura comunicazionale per cui Harrison Ford non è più Harrison Ford, è solamente Indiana Jones. Allora se uno riesce a capire che ci sono due soggetti là, uno Harrison Ford e l'altro Indiana Jones, se non lo capisco e mi schiaccio, che sarebbe la metacomunicazione, e mi schiaccio sulla comunicazione, per me Indiana Jones è solo Indiana Jones. Quindi il cinema non è cinema, è chiamato la realtà. Per cui dicevo la metafora, se io ti dico che tu sei forte come un leone, tu capisci che sto usando la metafora. Che il leone, secondo la nostra cultura, è un animale forte, eccetera, eccetera, per cui. Ma se tu non hai questa domanda fuori, perché capisci? Che diventi un leone. Questi sono meccanismi di difficoltà comunicazionale che la comunicazione visuale produce e riproduce. L'attuale comunicazione visuale, lo dico in termini molto brutali, è un meccanismo che produce doppi vincoli e nessuno in qualche modo può chiamarsi fuori da questi doppi vincoli. La doppiocina molto frequentemente è minacce quando stai lontano e accarezzamenti quando tu sei minacce quando stai vicino, avvicinamenti, dolcezze quando stai lontano, minacce e attrazione e repulsione, è una costante miscela di attrazione e repulsione. E solo le pubblicità, pubblicità naturalmente è fondamentale per i livelli nostri in cui noi riflettiamo più o meno implicitamente sulle cose. Per questo la pubblicità deve essere analizzata con la stessa attenta attenzione con cui si analizza per esempio una cultura, diciamo, altra, balinese. E lo faremo nella seconda parte, come si analizza la pubblicità, perché la pubblicità, ma anche non solo la pubblicità, è piena di questi meccanismi a doppio vincolo. E come affrontare il doppio vincolo, eventualmente come risolverlo, come tagliarlo, o come scioglierlo, è un problema fondamentale dell'antropologia della comunicazione. Questo problema dell'ambiguità, dell'attrazione, della rimozione di questo meccanismo, penso appunto che dicevo, lo affronta nella città a Bari. E adesso io faccio un taglio senza nessun e vi mostrerò questa sequenza straordinaria che poi commenteremo di Nicola Sarelli che mostra, vi dicevo, una sequenza di questo titolo orrendo, Gioventù Bruciata, il titolo dei ragazzi ribelli senza causa, in cui il doppio vincolo è presente e secondo me, secondo il regista chiaramente, l'attore James Dean, che penso tutti quanti voi conoscete, cioè un personaggio che cerca di risolverlo. Questo, vi do un'ulteriore indicazione, questo film è importantissimo, io sono convinto di questo, perché un grande regista, Nicola Sarelli, è stato uno dei più grandi. Nicola Sarelli era attento a quello che stava nascendo nel campo, per esempio, della ricerca etnografica. Nicola Sarelli aveva capito il doppio vincolo, aveva capito che era un momento fondamentale della cultura del suo periodo. Sono questi ambigui anni 50, no? Questi ambigui anni 50, si stanno affacciando gli anni 60. Beh, un grande regista come Nicola Sarelli capisce che Gregory Bateson gli sta dando un'indicazione fondamentale. Ed è questo che fa del cinema il grande cinema. Quindi vi do un'ulteriore indicazione differente da Coppola di Apocalypse Now. In Coppola può dare un'indicazione di altro tipo, letteratura, musica, eccetera. Qui un regista legge, interpreta un testo di antropologia e lo rielabora con una storia. E adesso lo vediamo. Thank you. ci dovrebbe stare. Secondo me, io qui ce l'ho sia nello schermo che nel video. Chi è il più bravo di voi che conosce queste cose? Va bene qua? E allora perché? Ma lei lo vede lì? Io qui lo vedo, vediamo. Cosa può su questa domanda. Sulla questione del rapporto personale, io non ho parlato di tutto un altro lato, l'ho solamente accennato, di Gregory Besso, perché Gregory Besso aveva questo rapporto abbastanza complicato con la madre, l'avevo accennato all'inizio, e la figlia si chiama Mary Catherine, la figlia sia di Gregory che di Margaret Mead, scriverà un libro bellissimo che si chiama Con occhi di figlia, e in questo libro riparla del problema di Gregory, del padre, che era sia in relazione alla madre, Margaret, che in relazione alla mamma di lui. In questo senso, l'esperienza di Gregory Besso sul doppio vincolo è un'esperienza che appartiene a molti ricercatori, diciamo così, molto avanti, cioè che riescono a trasformare i loro problemi, a vivere i loro problemi, come qualche cosa che non riguarda semplicemente solamente loro, ma sono qualcosa di più generale. Non riesco a mostrare l'immagine. Ci ho provato in tutti i modi. Nel video? E l'ho fatto. Scusi, l'ho chiamato. No. Qui funziona, si vede? No, sopra. Infatti. Io ho fatto F5. Devo portarlo fino a qua. No, qua. Ok, lasci. Continuerei, diciamo, la lezione normale, non so se ho risposto alla domanda. dare le risposte, nel senso che la questione della patologia, della normale anormalità, non è una questione riguardo solamente gli altri, riguarda in primo luogo Gregory Bateson. Gregory assume questo suo problema, ne è praticamente sensibile, forse è più sensibile lui di altri studiosi, e riesce a individuarlo e a trasformarlo in paradigma, in una di ricerca. E questo, cioè il fatto che ciascuno di noi è dentro una patologia più o meno normale, è un fatto che dobbiamo assumerlo come una cosa appunto normale. Questo è un riassunto, diciamo così, del doppio vincolo. Sono frasi di Bateson stesse, non sono mie. Se voglio mantenere il legame con mia madre, non devo dimostrare se là che l'amo, ma se non dimostro che l'amo, la perdo. Questo è un meccanismo perverso, nel senso, tra virgolette, che lega il figlio in questa maniera ambigua alla madre. Voglio mantenere il legame con mia madre, non devo dimostrare che l'amo, perché se dimostro che l'amo, aperto, la madre si sente soffocare. Chiudo qui? Solo qui? Sì, ci attacchiamo quest'altro. Quindi il doppio vincolo è se la madre comincia a sentirsi affezionata vicino al figlio, comincia anche a sentirsi in pericolo. Quindi vi è un meccanismo nella psicologia, nei comportamenti della madre, che quando è troppo vicina al figlio si sente in pericolo. E la madre in pericolo è la madre pericolosa. La madre in pericolo è pericolosa. In quanto non può accettare questa ostilità, no? E quindi, per negare la sua ostilità, simula affetto. E l'affetto simulato è una cosa complicata. Qui ci sono altre cose, però adesso magari tanto vi siete un po' abituati a fare un montaggio, no? Facciamo stop e vi do. Thank you. vorrebbero dire così. Non è vero, non Ti supplico, cerca di capire. Vieni con me, giovane. Una decisione impossibile potrebbe rovinarti la vita. Tra di noi non ti ricorderai. Allora rispondile. Diglielo. 10 anni. Papà, voglio la tua risposta. Avanti. Parlare tu per me. Sta in basso nel nello schermo e sta in basso moralmente e psicologicamente. È un padre ribelle, o anche fisicamente non sa prendere la decisione fondamentale che in quel momento il figlio gli chiede. Costantemente così la violenza. Lui dice sì, sì, c'è ragione, la violenza che avanti. Qui già il padre mi sta dicendo imparerai, lo dice dopo, imparerai, cioè il discorso che facciamo anche ieri, tra i valori che sono dichiarati di dire sempre la verità e i valori praticati c'è un abisso e il figlio sta per essere iniziato, cerco il genitore di iniziarlo alla morale di gente. E qui c'è un'altra sequenza dove è tra le più belle, perché qui il conflitto è chiaramente con la madre ed è con gli occhi, se vedete tutta la sequenza, la madre controlla sia il marito che il figlio con gli occhi. Anche quando è di spalle si intende che lei lo sta fissando, vedete ogni dettaglio, una ferra, il bracciuolo, così il padre continua sempre a, che basta fare finta di, e qui si crea il triangolo, vedete? Tra il padre, tra madre, padre e figlio. Lui è preso tra i due, cerca di liberarsi col padre, il padre è assente, il padre è veramente una persona debole. E il conflitto con la madre non è solamente teorico, e qui dice imparerai. E lui dice no, io non imparerò questo libro. Che è un valore molto importante, per questo è pure la seguita per corso, sono ribelli senza causa. Qui vedete l'ultimo duello è fatto proprio con gli sguardi. E c'è il momento finale adesso. Ecco, questo momento di silenzio, guardate, è veramente la sfida tra i due. Lui chiama il soccorso il padre, ma il padre normalmente sta seduto in pantofole. Qui viene esplicito il conflitto. La madre sta sempre così, no? Cerca di impedirgli il movimento. Guardi, sembra che si stanno per placare, ma adesso esploderanno di nuovo. Conflitto del padre. E qui c'è un'immagine molto significativa, c'è il quadro che rappresenta quasi il potere delle madri di questo tipo. Lui calciandolo e andando via è un'ipotesi di liberazione dal doppio vincolo, si sta staccando e i genitori chiudono la finestra, si guardano, stanno dentro e in silenzio. Questa è, diciamo, la sequenza, l'immagine finale, che è la fuoriuscita dal doppio vincolo del ragazzo. Rinchiude i genitori, questo tipo di genitori lo mette all'interno di una casa, della loro casa, in un silenzio si guardano e non c'è più nulla. Bene, dicevo, questa rappresenta, dicevo, nel modo più significativo, quasi didattico, ma anche drammatico, un'ipotesi di doppio vincolo in cui una madre forte che minaccia il doppio vincolo del figlio costantemente, io ti ho fatto io, so per morire, il padre intende di fronte al canale morto della televisione, e il figlio che decide che si gioca la partita della sua autonomia e decide di recidere appunto il doppio vincolo e di riuscire. Tutto questo è risolto, come vi accennavo prima, da un punto di vista chiaramente teorico, c'è una teoria chiarissima presentare, ma nello stesso tempo la teoria è rappresentata filmicamente Insomma, l'aspetto importante che mi sollecito, su cui bisogna riflettere, magari se avete questo, è che Nicolas Ray riesce a tradurre filmicamente il doppio piccolo, cioè il linguaggio del cinema ha una sua autonomia linguistica, che non è didattico, come stavo cercando di dire prima, non è appunto uno schema, è rielaborato attraverso una serie di movimenti tra gli attori, una serie di movimenti di giochi di sguardi e una serie di codici, insomma, fondamentali. Il canale morto, il fatto che il padre sia di fronte al canale morto e dorme in pantofole, in vestaglia, è veramente la massima critica che si possa fare a una condizione paterna, cioè l'immobilità sonnecchiante di fronte a un canale, a una televisione che neanche vede più immagini. Come era quando l'ho fatto all'epoca, adesso è difficile avere un canale morto, però vi dicevo che questa metafora è importante perché in uno dei romanzi che hanno costituito la contemporaneità, che è il Neoramante di Gibson, da cui è nata tutta la teoria della cyberpunk, la nuova teoria della cyberspace, il concetto di cyberspazio, cyberspace, è stato presentato per primo da questo ragazzo canadese di una ventina d'anni che scrive Neoramante, e uno dei primi inizi di Neoramante è proprio sul canale morto, sul canale della televisione morta. Vi invito a riflettere su questo e metterlo da una parte, perché se uno scrittore oppure un regista filma il canale morto della televisione, il significato che questo film, questa sequenza, questa inquadratura, questo scritto può attestare, è che se il canale è morto vuol dire che può essere anche vivo. Da qui una serie di riflessioni, sia teoriche, ma ancora di più in film, che un altro grande regista, in cui il canale televisivo è di carne. Forse il film, mi piacerebbe farlo vedere, adesso vedremo come fare il film, io normalmente, magari in passato, quando il corso è un po' più diverso, voglio vedere, è un film capolavoro sulla comunicazione, che è Videodrom di Cronenberg. Altro grandissimo regista canadese, però ho saputo, mi hanno detto che verrà a Roma e certo la cosa sarebbe bellissima, invitarlo qua a farci una conferenza, dire oppure noi andare là dove vi pare, perché sarà probabilmente più semplice. Però il film Videodrom, chi non l'ha visto, vi do veramente un consiglio, vedetelo, perché il Videodrom sviluppa tutto questo aspetto di una sindrome, di un canale televisivo che si fa carne, che diventa video carne, e la riflessione di Cronenberg non è casuale, perché a Toronto in quel periodo McLuhan già un po' prima stava elaborando le sue teorie sulla comunicazione. Allora vedo il terzo esempio scusate, di un altro grande regista canadese, questo caso Cronenberg, che si influenza da McLuhan, quindi si fa influenzare da un grande teorico di Max Media, e traduce la riflessione di McLuhan in uno dei più straordinari film che si possono vedere su questo, e cioè Videodrom. Quindi è il terzo esempio, diciamo, di regista accanto a Nicolas Ray e mi accoppola. Bene, non so se avete una riflessione sul film, abbiamo 5-10 minuti, c'è una riflessione su Nicolas Ray? Ecco. Quando a me ha colpito molto la scena iniziale quando lui... Scusate, lui ha colpito molto la scena iniziale? Quando lui si avvicina alla bottiglia del latte a questo. Vabbè, giustissimo, a me colpì molto, perché io non avevo pensato all'inizio a questa relazione, devo dire la verità, avevo pensato più a un'altra cosa, ma una situazione studentessa durante una discussione, come stiamo facendo adesso, disse: attenzione, sia il latte sia la posizione di Jefferson è una posizione, diciamo, sinfegale, è come se lui fosse proprio un bambino che sta per nascere o rinascere. E certo, perché il latte è messo in quel modo, per certi versi è Jefferson con l'azione, è l'acto studio che stabilisce queste relazioni. Non so se conoscete i codici dell'atto studio, cioè così è stato, diciamo, uno degli attori più significativi. Scusate, avevo lasciato. L'avevo lasciato perché non l'avevo già per vedere l'ora, l'avevo lasciato. Mentre viceversa, sì, certamente c'è questo aspetto di atto studio, un po' di una sensualità androgina, è molto androgina come scena, ma lui sa. L'uomo e la donna in qualche modo, ma secondo me l'informazione di questa sottesa e la tua vanno giustamente dentro il latte è messo alla guancia come una ricerca di un contatto di un seno materno, e proprio quando lui fa questo contatto arriva madre, scende, e lui in quel momento registra, va a rovesciare la cinepresa e stabilisce la correttezza delle immagini, e la correttezza delle immagini non è il seno materno affettuoso e disponibile, ma è un altro seno materno, è duro, è implacabile, è tu devi fare quello che dico io, e è il seno a doppio vincolo, la madre gli offre il seno a doppio vincolo, e lui si sente legato a tutto questo, per cui chiama il padre, eccetera, eccetera. Per cui ecco, l'immagine dell'arte in effetti è un'immagine potente dal punto di vista scientifico, anche lui che è vestito di rosso, sia perché sia perché il rapporto tra rosso e bianco è significativo dal punto di vista proprio della dimensione cromatica del cinema di Luca. Un'ultima domanda, riflessione. Sulla traduzione, ce l'avete presente questa cosa? Che il film, perché avete riflettuto su questo film che all'epoca fu veramente famoso. In Italia è tradotto Gioventù Sociale, cioè è un film che attacca un tipo di famiglia e il titolo invece accusa i giovani, cioè rovescia il senso del film, capite? Perché il conto di ribelli senza causa, guardate che Nicola Sacchetti col titolo individua un enorme processo che stava accadendo in quel periodo, perché la gioventù di quel periodo era ribelle rispetto a certi valori, non aveva un obiettivo, non aveva una prospettiva che potesse unificare questa ribellione, ma era ribelle, quindi c'era un'attenzione, una delicatezza, una simpatia di Nicola Sarrei verso i giovani. E in Italia uscì Gioventù Bruciata, ma anche in Brasile uscì con questo titolo, Gioventù Bruciata, cioè un rovesciamento. Per cui Gioventù Bruciata era il modo in cui si trattavano i giovani, era questo quello che era Gioventù Bruciata. Sì, certamente, era allora, purtroppo anche adesso. A parte questo, infatti, all'epoca c'era una condizione molto pesante dal punto di vista della condizione. Una secolarizzazione. Sì, un po' c'è stato, un po', diciamo, le tendenze. Mi pare che sono verso, sono anche verso una cosa contraria. Credo che noi siamo dentro un momento molto conflittuale, dentro anche, adesso scusate se dico una cosa, ma c'è un'ingerenza molto forte, per colpa tua dovrei capire, c'è un'ingerenza molto forte nei principi sono cattolici, che sono bellissimi per i cattolici, ma per chi non è cattolico non si capisce perché li dovrebbe seguire. È il discorso sull'universalità, io trovo straordinario che il cattolico non divorzi, ma non vorrei che non obbligasse a me a non divorziare, ecco, semplicemente questo, mi sembra una cosa così tranquilla e normale, e che ancora adesso si deve discutere su questo, mi sembra veramente no, come quei film che uno si sveglia dopo 50 anni ancora del discorso principi che a mio avviso, io spero che tutti voi sia abbastanza normale accettare le differenze sui valori religiosi, sessuali e familiari, e mi sembra strano che qualcuno voglia imporre un modello a tutti gli altri. E il film in qualche modo sollecita appunto queste riflessioni, poi ciascuno di voi troverà la propria via, naturalmente, e spero che sia una via illuminata. C'è un'altra domanda? Sì, questo passaggio rappresenta una contraddizione? Quando torna a casa cerca un rifugio, la cosa di latte. Calci la madre, perché poi la lezione è simbolica e comunicazionale, cioè prendere a calci il quadro della madre, insomma, è ancora più violento dal punto di vista fisico che aggredire il padre. È forte, la fora, lo buca il quadro, e se la è l'ultimo ostacolo prima di andarsene. Questo non l'avevo pensato. Il quadro è come se fosse messo da ostacolo alla sua uscita. L'ultimo foro rappresenta la nuova nascita, può darsi, però lì è, diciamo, una sua autonomia che chiude all'inizio, allora all'inizio è lui con il latte materno, alla fine è lui il foro che sarà. Ci vediamo lunedì prossimo.